Da lunedì 27 a venerdì 31 marzo il DAMS Lab ospiterà il progetto Crocevia di Teatro e Carcere. Io sono qui per parlarne con Cristina Valenti, curatrice del progetto, insieme a Valeria Venturelli. Ciao Cristina, benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno, felicissima di essere con voi. Allora, dicevamo, Crocevia di Teatro e Carcere dal 27 al 31 di questo mese, una rassegna veramente ricchissima. Ti volevo chiedere, Cristina, di raccontarcela un po', di raccontarci anche da dove parte l'idea appunto di crearla. Eh sì, è una rassegna molto ricca, effettivamente ne siamo molto felici ed orgogliosi per essere riusciti, insomma, a organizzarla. Non è stato semplice perché il teatro in carcere è un ambito che presenta tantissime difficoltà, perché entrare in carcere è complicato, perché portare avanti progetti in carcere richiede effettivamente un impegno particolare ed è un'attività esposta continuamente a rischi, incertezze, non c'è mai nulla di certo. In questa incertezza, in questa difficoltà, noi siamo riusciti addirittura ad organizzare la presenza di uno spettacolo che vede in scena 10 attori detenuti e 3 attori ex detenuti del carcere di Milano Opera. Parto da questo proprio perché, diciamo, è un risultato che ritengo molto molto importante. Sappiamo che il teatro è entrato nelle carceri, in tantissimi istituti di pena, è possibile per gli spettatori entrare in carcere a vedere i lavori degli attori detenuti, molto più difficile con molta minore frequenza, è possibile che le compagnie di attori formate da attori detenuti escano dagli istituti di pena per raggiungere la, diciamo, normale programmazione dei teatri. Sono molte, diciamo, le componenti che devono in qualche modo concorrere a questo risultato. Siamo riusciti, insieme alla straordinaria regista Ivana Trettel, che porta avanti 2008 un laboratorio continuativo dentro il carcere di Milano Opera, siamo riusciti a ottenere questo risultato grazie alla collaborazione del direttore dell'istituto di pena, al permesso accordato dal magistrato di sorveglianza, insomma tutti quei tasselli che si devono comporre in questi percorsi che sono davvero molto molto complessi. Quindi, diciamo, questo spettacolo è partito da questo, anche se è il lavoro che concluderà il nostro percorso il 31 marzo. Lo spettacolo si intitola Noi Guerra, è uno spettacolo importante con un testo anche particolarmente significativo, a maggior ragione in quanto è stato scritto da attori detenuti insieme alla regista Ivana Trettel, ma i testi sono proprio i loro e devo dire che sono testi che hanno un certo spessore lirico, devo dire, insomma, tutto da vedere e da ascoltare, con anche una componente importante, ossia l'aspetto scenografico, al quale ha concorso un artista importante, davvero, che rappresenta un pezzo di storia delle arti visive del nostro paese, Giovanni Anceschi, come sappiamo, insomma, fondatore di un percorso di arte cinetica molto, molto importante. Ecco, questo è lo spettacolo che concluderà il progetto, ma ci saranno anche diversi altri appuntamenti, perché questo progetto, diciamo, nasce dalla collaborazione con due reti, in particolare appunto la rete formata dal coordinamento del Teatro Carcere Emilia Romagna e la rete nazionale per Aster ad Astra. Per noi è stato importante dare spazio a queste realtà perché rappresentano un momento di maturità, di età adulta, io dico sempre, del teatro carcere in Italia, cioè un momento in cui varie esperienze, varie realtà sono riuscite a coordinarsi, dando vita a momenti di coordinamento, di rete, che sono importanti ovviamente sia nei rapporti con le istituzioni, sia nei rapporti ovviamente con il territorio. Parlando del coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna, ospiteremo un incontro, in particolare la presentazione dell'ultimo numero della rivista Quaderni di Teatro Carcere, che è dedicato all'ultimo quadriennio di attività del coordinamento. Ne parleremo con due registi del coordinamento Teatro Carcere, Eugenio Sigari e Sabina Spazzoli, e vedremo uno slideshow fotografico che ripercorre questi 4 anni di attività appunto del coordinamento. Doveva essere un triennio, quello dedicato all'ultimo progetto del coordinamento, è diventato un quadriennio perché ovviamente c'è stato il Covid di mezzo. Fra l'altro questa rivista, quest'ultimo numero della rivista, ospiterà nella parte extra monografica, cioè nella parte non dedicata al progetto del coordinamento in senso proprio, una importante intervista alla quale noi teniamo molto, con Mauro Pescio, il podcaster autore del Caso dell'anno, Io ero milanese, questo podcast appunto uscito per Rai Play Sound, che ha già contato più di 1.500.000 ascolti, e Mauro Pescio sarà anche ospite di questo progetto con un suo spettacolo, perché appunto questo podcast è diventato anche un live. Quindi Io ero milanese live sarà presentato il 27 e 28 marzo, ma Io ero milanese è diventato anche un libro e Mauro Pescio lo presenterà il 28, quindi ci sarà anche questo incontro molto atteso, perché Mauro Pescio ha raccolto attraverso la fortuna di questo podcast, fortuna meritatissima, ha raccolto tantissimi fan, quindi è sicuramente un appuntamento molto molto atteso. Ti volevo chiedere, Cristina, come si può partecipare? Ecco, so che gli spettacoli sono comunque a ingresso gratuito. Sì, gli spettacoli sono a ingresso gratuito e è possibile prenotarsi attraverso il sito del Dams Lab, ci sono tutte le indicazioni per prenotarsi. Perfetto, Cristina, ti ringrazio veramente per averci raccontato da più vicino questa bellissima rassegna, questo progetto Crocevia di Teatro Carceri. Ricordo ancora una volta, da lunedì 27 a venerdì 31 marzo all'interno degli spazi del Dams Lab. Grazie ancora Cristina per avercene parlato. Grazie a voi, è stato un piacere, grazie.